Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera e benvenuti a Smart City. Sviluppare una nuova piattaforma tecnologica che permetta di introdurre in modo impercettibile sensori e intelligenza, nonché la capacità di comunicare con l'esterno in qualsiasi materiale ed oggetto commestibile. Insomma, elettronica da mangiare. Questo in estrema sintesi l'obiettivo del progetto Elfo, che non sorprendentemente sta per Electronic Food, progetto finanziato con un ERC grant da circa 2 milioni di euro dal Consiglio europeo. Vale sempre la pena di ricordare che i finanziamenti ERC sono tra i più ambiti dai ricercatori europei, anche perché sono diretti appunto al ricercatore e lo seguono ovunque questo intenda poi svilupparlo. Parliamo in questo caso di chi? Di Mario Caironi, coordinatore del laboratorio Printed and Molecular Electronics del Center for Nanoscience and Technology dell'IT, quindi l'Istituto Italiano di Tecnologia, più precisamente quello con sede a Milano, dove appunto la ricerca verrà realizzata. E allora buonasera Caironi. Buonasera, buonasera. Allora Caironi, intanto chiariamo subito quali sono le possibili applicazioni. Parliamo di circuiti elettronici commestibili in pratica. Ecco, per fare che cosa? Sì, noi abbiamo due chiare applicazioni in mente. Una è quella di dotare normali farmaci di intelligenza, per esempio nel prendere i farmaci, questi ci potrebbero dire le condizioni del nostro corpo, quindi la temperatura, l'acidità dello stomaco, quindi per specializzare potenzialmente anche le cure. E dall'altra quella per etichettare direttamente il cibo senza bisogno del packaging, dell'imballaggio per esempio. Perfetto, allora stiamo parlando di fatto di sviluppare degli inchiostri, mi lasci dire così, che hanno appunto delle proprietà elettriche ed elettroniche che opportunamente assemblati formano dei circuiti che sono in grado di trasmettere dati, riceverli, scambiarli e così via. È corretto? Sì, sì, è assolutamente corretto. Assolutamente possiamo parlare di inchiostri, perché questo ci permetterà di utilizzare tecniche a basso costo per realizzare questi oggetti. Questi inchiostri avranno le funzionalità necessarie a realizzare elettronica, quindi avremo degli isolanti, avremo dei conduttori e avremo anche dei semiconduttori. Abbiamo quindi gli elementi che servono per realizzare circuiti e saranno basati su materiali totalmente atossici e non pericolosi per l'ingestione. Partiremo come strategia proprio dallo sfruttare le proprietà di ciò che è già considerato cibo, quindi studiando le proprietà elettroniche di materiali che sono già cibo. Ecco, e qualche esempio? Abbiamo degli esempi che stiamo già sviluppando in laboratorio, possiamo utilizzare come isolante. L'isolante è il caso più emblematico, perché abbiamo una vasta libreria di materiali. Per esempio possiamo pensare all'albume, che possiamo ricavare in forma liquida e poi trasformare in solido, in isolante solido, attraverso quel processo che tutti conosciamo come cottura. Diciamo, certo. e ovviamente non bastano isolanti, ci servono conduttori. Possiamo pensare ad esempio a quelle pillole che si ingeriscono per togliere il gas dallo stomaco. Bene, lì all'interno c'è carbone attivo, questo è un conduttore ed è perfettamente adatto insomma a realizzare dei fili elettrici, mi lasci dire così, dei piccoli fili elettrici. Sì, ovviamente dovremo adattarli alle funzionalità necessarie per i circuiti elettronici, ma la base di partenza è quella. Il materiale più difficile da sviluppare è il materiale, se vogliamo, nobile dell'elettronica, che è il semiconduttore, ma basti pensare che in natura tutti, diciamo, anche la frutta colorata è basata su coloranti naturali che hanno le proprietà elettroniche, hanno proprietà elettroniche, quindi hanno la possibilità di trasportare cariche. Quindi partiremo dallo studio di questi materiali. Perfetto, insomma, si tratterà poi di combinare, in questo caso difficilmente potrebbe essere una metafora più adatta, qui si tratta proprio di mettere a punto una ricetta vera e propria, ogni circuito la sua ricetta. Ecco, dicevamo delle applicazioni, una quindi è quella di fatto di pillole ingeribili che una volta ingerite siano in grado di trasmettere delle informazioni su ciò che trovano all'interno del corpo, ma non esiste anche qualcosa del genere in fondo? Sì, diciamo, esiste già dell'elettronica ingeribile. Questa è fatta, diciamo, incapsulando della elettronica classica, diciamo, possiamo pensare a un microcontrollore, un microprocessore, anche addirittura videocamere, incapsulate in qualcosa di rigido, in una pillola che può essere ingerita, e questa svolge all'interno del corpo funzioni complesse come un'endoscopia addirittura. Ovviamente questi oggetti non interagiscono col corpo, devono essere ingeriti e devono essere recuperati, espulsi, certo. E hanno anche delle problematiche di sicurezza, non possono essere somministrati al di fuori di un ospedale e devono essere fatti con stretta supervisione. Mentre voi farete delle pillole oltre che ingeribili anche digeribili, sta dicendo, no? Esatto, pillole che siano somministrabili a casa, per esempio, quindi certo, non sotto stretta osservazione. Perché? Perché fatte con materiali che può essere, una volta espletata la funzione della pillola, questi materiali vengano digeriti o addirittura metabolizzati. Certo. Allora, veniamo all'altra applicazione, che è questa delle etichette alimentari, sempre etichette elettroniche, ricordiamolo, quindi etichette che scambiano dati, per esempio con un cellulare, per capirsi. Qui parliamo di fatto scrivere questa etichetta direttamente sul cibo, sulla pelle di una mela o su una fetta di carne. Assolutamente, quindi essendo dei sistemi intrinsecamente commestibili, possiamo pensare di utilizzarli direttamente a contatto col cibo, quindi senza bisogno di imballaggio. Quindi da un lato c'è un risparmio sull'imballaggio, che è un tema attuale, e dall'altro abbiamo uno strumento di anticontraffazione molto più efficace, perché di fatto certifichiamo direttamente il cibo e non ciò che lo contiene. E non l'imballaggio, come invece appunto può accadere oggi, per cui uno potrebbe sostituire il contenuto di una confezione che apparentemente risulterebbe regolare. Senta, mi sembra tutto molto chiaro, io però le voglio fare un'altra domanda: ma queste etichette che sapore avranno? Non riuscite a fare, non so, l'etichetta alla fragola piuttosto che al mirtillo? È interessante. Beh, posso anche rispondere, diciamo, alla domanda in questo, dicendo che stiamo in laboratorio sviluppando dei transistor che sono alla base, diciamo, di un circuito, utilizzando per esempio il miele come elemento di gating. Quindi potrebbero avere anche un sapore, chissà. Quindi, insomma, un domani ti aspettiamo da voi il transistor alla banana o qualcosa di questo genere. Va bene, sarà il prossimo Year's Grand sicuramente. Grazie Mario Caironi. Grazie mille. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui e, in attesa di papparci un po' di elettronica, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.